momento se lo chiede ti dice tutto, ti aiuta molto. No, io sono qua vicino, quello ogni tanto cambia, siccome è un broker questo c'ha tante assicurazioni, mi dice, amico, questa non ti fai cattolica, poi ti fa Unipolsai, poi ti fa Fondiaria Sai, cioè lui a seconda del mercato ti fa sempre, io scusi le macchine che ci ho assicurato, fa sempre un giro di cose, riesce a fare un prezzo buono. Il problema è che adesso se devo fare l'assicurazione a quel mezzo nuovo, c'è una legge nuova, non mi permette di tenermi, non dico la classe, perché classe non ce n'è in quelle lì, però mi paga un po' di più. Mi pago 80 euro in più rispetto al camper normale di assicurato da qualche anno. Ah, sì, già ho capito come funziona così. Dai, adesso Robby, chiudo, da, già ci sentiamo un altro momento, da. Comunque, grazie del QSO che almeno mi sono sbrogliato un pochino le corde vocali. Dai, già ci sentiamo. Ciao Roberto, ciao Antonio, alla prossima. Ciao, fa. Ehi, cacca bombola, giace la carraba, Buru Daniele. Già lo conosco bene, ok. Ciao, ce la sentiamo. Ehi, alle cuce. Adesso non ce l'ha più. Ui. Ha detto che era meglio un assicuratore. Vabbè, ti imbrutti di manco. No, ti pacchi la china di manco. E rubi o non rubi. Dai, adesso chiudo, dai, già ci sentiamo. Ciao. Ehi, ciao Dani, poi già ci sentiamo. Ricordati di quella roba che avevamo parlato, quando ti capita, chiedi sempre. Ok, Robe. Tanto domani se scende, glielo provo a chiedere. Perché era un pochino incasinato ultimamente. Ehi, grazie comunque, ciao. Antu, poco fa ero su CBTOC, ero da un suo Gugante, senza 2-3 anni senza accenderlo, e c'era questo tipo, appena mi ha visto, mi ha sentito, ah, tu sei dalla zona dove c'era Vela, Pierpaolo, certo che lo conosco a Pierpaolo, ho detto, ma stiamo parlando Pierpaolo, sì, dice, mi raccomando, salutamelo tanto, questo Don Camillo si chiama, infatti se senti a tuo padre diglielo, mi ha raccomando tre volte, mi ha detto, mi raccomando, perché mi ha chiamato, io non volevo entrare, ero in ascolto, e poi alla fine, allora Roberto Quadrato, entri o no, che così saluti un amico mio della tua zona, e alla fine sono entrato, mi ha detto, mi raccomando, saluta a Vela, ho detto, ma a Vela a chi? Ho detto, Pierpaolo, sì, Pierpaolo, infatti poi quando sono uscito, mi raccomando, saluta. Ma che se glielo dico solo, di non è andato che la Chicina, mi dice. Come? Non lo può vedere, no. Non lo può vedere. Eia! Ma se solo glielo dico, mi dice che non andate che la Chicina, tutto quanto Dorino, mi dice. Ma cosa è successo? Non vedi cosa, già ti racconterò. E parliamo amica, ho detto, salutavano tanto con l'amico, ma è grande di età questo qua. Eia, ma cioè, non è sano di gà. No, proprio non lo può vedere. E parliamo un bei amici, quando mi ha detto, Vela, salutami a Vela, ha detto, ho detto, dalla di Sassa, ha detto, io Vela lo conosco, un Vela, in 27 però gli ho detto, come si chiama? Pierpaolo, sì, si chiama Pierpaolo, salutamelo, ma l'ha detto 3-4 volte mica, ed è proprio vicino a Torino, hai detto bene. Odia Eddomi che non lo può vedere, ma ve lo dico qua. Oh, lui c'ha la 3000esima persona di tutti quanti, adesso sono arrivati più di 1 milione di iscritti con CBTOC, lui è il numero 3300, proprio uno dei primi nel mondo. Lo so già, un macco di catena, eh. Io sono 100.000, 103.000 mi sembra, lo stesso uno dei primi, ma quello lì cacchio è proprio 3000, è proprio in assoluto uno dei primissimi, adesso sono arrivati 1.300.000, 1.400.000, più di 1 milione. Capa, già lo so già Robè, altro se ne intendi Edo, sì, mamma mia. Allora, ne vedi cosa vuoi ti dici, io pensavo fossero amici. E già glielo dico, ma c'è qualcuno che vuole entrare? Chi è che vuole entrare, avanti? Chi sei? Questa è in macchina, perché parte da 6, 7, 8. Chi sei? Non riesco a capire chi sei, ridillo. Non va radio, non va. Ma il segnale sale a 7, però come schiaccia arriva a 7, però non lo sento, non capisco cosa sta dicendo. E anche a me così più o meno. Anche un po' di più mi è salito, boh, chissà che è. Che bello coraggio. Ah, non deve essere sano di gabbo questo. Ma è ti sei gabbo però, tu. Gabba. Cioè, uno che la parli ha parlato anche male, capo, da voi, salutami, cioè, ma tu sei tanto fuori di gabbo. cosa ne so, ma non è pizzicato, Antu. In che senso? È il senso da Lecce, me, ma hai compreso? È approccio. Non lo vuoi dire, l'hai detto tu. Perché lì è pieno di traghetti, me, donne in cerca di gozo, di volatili, uomini in cerca di uomini. No, no, è proprio macco, Cacchio, c'era quel tipo, adesso vabbè, io ti ripeto anni fa, adesso non lo so, Tamburello, non so se l'hai mai sentito. Vale un raio, io pensavo fosse donna, invece è maschio quello lì, come parlava, ma proprio andava a cercare, dava gli appuntamenti, eccetera. Aveva l'appuntamento, pigliava a farebbe da curo. Ma tu devi vedere le donne, l'altro giorno c'erano questi due tipi di Olmedo, e più c'era uno di, non so di quel cacchio era, della penisola. Tardi, era di notte, acceso, così un attimino, e c'era a vedere, era roba di mezzanotte, 11:30, mi stava addormentando, c'era il cellulare, e c'era a vedere, e c'erano queste qui, e mi hanno visto che ero acceso, e subito, allora perché non entri subito in bilancio di confidenza? Io ho lasciato perdere, e ho ascoltato 5 minuti e poi me ne sono andato. E ti devi fare vedere dei discorsi spinti, queste due. E ti ha detto, chi c'è un'altra storia, per carità, ho capito chi sono già. Non mi ricordo il nome, forse Luisa, Rosaria, hanno mai gusti bavianni tutti e due, ma devono essere di far vedere di tette, di coso, di quello, di quell'altro. E ho capito chi sono. Una si chiama Rita, si chiama. Rita, ha detto bene, non Luisa, Rita si chiama, ma l'altra che l'altra è la cugina lo stesso, si fa chiamare Ilaria, ma che dai. Erano ieri notte erano. No, ha detto bene Ilaria, non Rosaria. Ilaria, no, sto parlando un paio di settimane fa. Ti ripeto, ho acceso un attimo, perché molte volte quando non c'è il sonno, e te ce la vedi, ho fatto un giro e c'era gente. Erano queste tre, c'era un tipo e queste due tipe parlando, ma bocchi gatti proprio che non ne potevano più. Ah, si gridiane, ma vai. Ma probabilmente sono delle CB perché utilizzavano dei termini da CB di 27, perché la maggior parte degli italiani che parla qua non ha mai parlato in 27, ci sono un bel di ragazzi, gente così, qualche camionista, vabbè già ha parlato, qualche OM, cioè, però c'è un bel di gente che proprio non ha nessuna esperienza, nel senso di aspettare prima di dare il cambio all'altro, le parole che dire, niente, parlano sopravvato. Loro erano abbastanza preparate, nel senso utilizzavano dei vocaboli che usi in 27. Ma no, sanno, io quando adesso io no, forse non ce l'ho mai avuto loro, l'apparecchio. Però usavano tutti modulando, la portante, mi ha messo la portante, non mi ha lasciato parlare, quelle qua, cioè sono parole che utilizzo in 27, poi se magari lo utilizzano anche di lì non lo so. Però erano un po' allegrucce, dai, poi una notte di notte così donne a quell'ora lì, ho detto, non deve fare niente. Quindi Robè, ce n'è un libro, ce n'è, per carità, già ti racconto una volta, ma comari che mio padre ci ha mandato a cagare, meno male qua. Ma lo immagino, capo, poi qua in radio 27 già non ce n'è, anche se tempo fa c'era qualcuna, ho sentito qualcuna un po' allegrotta, ma forse è stata pochissime volte. Sono anni che non intengo. Sì, aspetta, facciamo un attimino di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare qua sul canale 10, avanti con la buonasera. Vai di nuovo, Antu. Vabbè, io non so su tutto, dico, la gente mia, per carità. Aspetta che stanno chiamando a me, avanti che chiama? Chi sei avanti? Non ho capito, Daniele, cos'hai detto? Guarda, non ti capisco, cioè il segnale sei quasi a livello di QRM, sei 6-7, però non ho capito, se ti metti in una posizione migliore, se sei in macchina, chi sei avanti? Pure io sento bassissimo. Non lo so chi sia, non credo che sia Nicola Lupo Grigio, perché è troppo basso. No, è straniero, è straniero. Adesso ho capito bene, l'ho sentito bene io. È straniero, Robè, dito voi zendi, io un giorno ti racconto cosa cavolo tutto è successo, Dio mio. Ma qua è 26? No, su GB Talk. CBTalk ho sentito anche io delle discussioni di donne che sono andate appuntamento su Facebook, che poi si sono sentite, eccetera, che hanno avuto cose particolari, che se ne stavano vantando. Già lo so, già, e chi dà tra con Mondezzina, come si chiama? La Chiara, Lisa, Matese. Non è andato da un camionista a suonarglielo. Non lo so, questo non lo so, però già ne ho sentito di storie raccontate di lì, qualcuno ve le ha raccontate. Ti ripeto, io ero da un po' di tempo che non c'entravo, e me l'aveva fatto fare Giulio, tre, quattro anni fa, questa storia. All'inizio l'ho provato, c'era qualcuno, qualche momento l'ho fatto, quando per dire ero col camper, che non era, poi l'ho abbandonato completamente, l'altro giorno ho acceso e ho sentito queste qua. E oggi ho di nuovo acceso e c'era questo tipo che ha mandato i saluti a tuo babbo. Così Romagna. Già ve lo dico io. Don Camillo QRX, così si chiama. Ero cagannuccia. Ma poi mi ha fatto entrare lui, perché io stavo ascoltando, non me ne fregava niente di entrare. Ero in camera, ero appena rientrato, mi sono sdraiato 10 minuti, ho detto ci metto sottofondo qualcuno. E loro subito mi hanno chiamato, Roberto Quadrato entra, che così saluti un amico dalle tue parti. Alla fine sono entrato. Ma che ve la già su. Poi mi ha detto abbassa la radio che sei troppo forte. Ho detto come troppo forte? No, sei troppo amplificata. Allora ho visto che c'era, io tenevo sempre al massimo prima quando andavo, ho detto no, devi abbassare, l'ho messo a metà, dice solo lo metti in posizione automatica, e come si fa? Ah, schiacci il giro, ho detto no, allora l'ho messo a metà. Chiappa. Il mio pompa lo stesso è come telefono. Che telefono c'hai tu? Lo Xiaomi. Anche io, il migliore. Il mio stesso c'è la modulazione micidiale. Sì, è vero, questo Xiaomi qualità prezzo sono il numero uno. Io ce l'ho già da qualche anno, io quando compro una cosa mi informo, faccio tutte le comparazioni, per quel prezzo non c'è, infatti l'ho fatto comprare anche a mia figlia a Natale, gliel'ho regalato, però mi sa di con Samsung, ho detto ma cosa Samsung, che costano il doppio e non è che siano migliori. Diciamo sono degli ultimi prodotti, niente da dire. Io prima, tanti anni fa, ho iniziato con lo Huawei nel 2013, mi ridiano in faccia. Dei telefoni cinesi, già ne riparleremo. E poi tutti i suoi dicono Huawei poi ha iniziato a fare il furbo e aumentare i prezzi, ne è uscita la Xiaomi, appena è uscito il prodotto subito l'ho comprato, era in offerta, l'ho trovato e ho risparmiato mi pare un centinaio di euro, l'ho preso al volo e così l'ho preso a mia figlia. E lei vabbè c'ha, io ho le 9, lei le ho preso l'8 turbo, c'ha più o meno le prestazioni del mio, però non ha il doppio schermo, il mio c'ha il doppio schermo in vetro, quelli Super AMOLED eccetera eccetera, è la versione più povera del mio, però è sempre a livello di processore di RAM è uguale al mio. C'è una bomba, quello di Sara c'ha il 9 lo stesso, però la versione è un po' più meno, come si dice, il 9 è normale ed è una bomba. Io c'ho l'ottotticcio Note ed è una bomba, non li posso dire nulla, mai problemi, mai si sono inceppati, niente. Pure il mio principale se l'ha pigliato, cioè l'ha cambiato con Apple, che è con gli Ox Apple, che era una merda era. Vabbè, gli Apple quando sono usciti 7-8 anni fa erano degli ultimi prodotti, ormai adesso, a parte che costano un'esagerazione, non ne vale più la candela, tanto dopo un anno il telefonino è già vecchio, è già passato. Adesso c'è il 5G, per cui devi già aggiornare tra poco se vuoi avere delle prestazioni superiori. Comunque Xiaomi a livello di prezzo è eccezionale. Adesso c'è anche l'Oppo, che è un ottimo prodotto, è il concorrente povero di coso dello Xiaomi. Lo Xiaomi ha fatto anche Redmi Note di lo stesso, il brand povero, diciamo, più commerciale dello Xiaomi normale, e sono degli ultimi telefonini eccellenti. Solo prevedi tra un anno e tre, io ce l'ho già 2 anni questo qua, non lo conosceva nessuno, adesso piano piano un po' di gente ce l'ha. Quando l'ho preso io, questo è il terzo anno mi sembra che quando l'ho preso. Io 2 anni e passa, dai, c'ha più di 2 anni questo. Quando l'ho preso nessuno lo conosceva, poi tutti quanti adesso stanno iniziando a conoscerlo. Però è un ottimo telefonino, fa delle belle foto, io lo tengo acceso 24 ore su 24, non lo stacco mai, tieni presente, non mi alzo da piedi, sempre andando facendo le corna. Guarda, anche io, Io ho già avuto il 6 New Global. Cazzo, ho detto, sto telefono una bomba, funziona con una meraviglia. Il primo che ho comprato, il secondo ho comprato questo. Minchia, ma no, non lo cambierei con nessun altro, non ho, ce l'ho quasi 2 anni, non ho mai avuto un problema, mai, gli faccio i suoi aggiornamenti ed è perfetto lui, mai avuto un problema. Ma non sai quante volte mi è caduto in terra, cioè ho fatto che la bomba, in officina non so come ho fatto, mi è caduto dell'attacco qui sopra, ho detto, boh, allora dello schermo, siccome c'è quello Gorilla Grass e lo schermo più duro, diciamo, con l'ultima generazione, ho detto, boh, ha rovinato il telefonino, perché c'era questa cosa, non ci va, cazzo, ha sbigliato la luce d'attrice, passa abrasiva, più nuovo di prima, è ritornato. È vero, è vero. Questi hanno uno schermo allucinante, hanno. Oh, che bello che grosso guiccio. Cioè, ma anche gente che l'ha visto, dice, cavolo, non ce n'è per nessuno, no, no. Sono i migliori che ci sia nel commercio, non c'è nulla da fare. E stanno uscendo, ce n'è uno che c'ha 128 KB, cavolo, è una bomba, Ce n'è uscito uno che c'ha il doppio schermo dietro pure, no? Quello mio, il mio 128, adesso vabbè, 128 non sono più niente, anche quello mia figlia ha 128, 6 giga di RAM, doppio schermo, in titanio, leggerissimo, se lo vede non pesa nulla, rispetto a quello mia figlia, che lei c'ha il 9 turbo, l'8 turbo mi pare che c'è, però è la versione economica, però c'ha lo stesso processo del mio, non c'ha lo schermo uguale al mio, perché io ho quello Super AMOLED, quello più come luminosità, cioè anche in pieno giorno lo vedi 4K, cioè si vede benissimo, ti guardi le partite, cazzo, nessun televisore riesce ad arrivare così come definito, bellissimo, però anche questo sta invecchiando, adesso ci sono quelli nuovi, hanno fatto l'11, cacchio che è una bestia, mi pare, non so se sia 512 di cosa, di memoria, e più la RAM ne ha 12 giga di RAM, è una bestia di telefonino, però costa già 600 euro, no, 700 euro mi pare il costo. Sì, tu con 500 euro stai prendendo il top. Cioè, vai a pigliare un Apple, grazie, ha un sacco di problemi, no? La grande mela, apri a continuo da capo, un sacco di problemi, anche su quelle applicazioni, sulle applicazioni, come si dice, tipo CBTalk e cosa, vanno malissimo, vanno quelli della Apple, quelli IOS, questi vanno bene, non hanno nessun tipo di problema, proprio zero. Sì, no, assolutamente, sono molto robusti, e qualità prezzo non ce n'è, l'unico adesso che si avvicina come prezzo e qualità è il nuovo Oppo, che hanno fatto ottimo prodotto e costa poco, però cacchio, un Samsung per avere quelle prestazioni lo paghi il doppio, a parte che tutti i Samsung che ho conosciuto in famiglia, che è casa mia, tutti erano in Samsung, tutti hanno avuto problemi, ma tutti, non ce n'è uno che li puoi dire che non ha avuto problemi, ottimi prodotti, però sono troppo delicati, perché sono troppo tirati come prestazioni, e si gribano facilmente, poi non parliamo dello schermo, cacchio quanti se ne sono rotti, in casa di gente la si fa già pezzi, questo stranamente me ne è caduto, ma proprio male, proprio, ha detto, buh, truncato in due, pure tranquillo, ha resistito bene, forse il materiale della struttura, perché è una lega di titanio, non lo so cosa cacchio, ha assorbito bene, però sono soddisfattissimo, come ero soddisfattissimo di Huawei, io ne ho avuto due, ne ho avuto uno nel 2013 e poi ne ho preso un altro, che andava benissimo, però alla fine non ce la faceva più, perché cacchio, quando è pieno di roba, di applicazioni e cose del genere, alla fine era troppo lento, ho detto basta, è arrivato, perché loro ti mettono sempre aggiornamenti, alla fine te le trippano il telefonino, alla fine ha detto, buh, la stabili, mi è capitata un'occasione, sono stato un mese cercando il telefonino con quelle prestazioni lì, alla fine era il numero uno per quel prezzo, non nessuno ti dava quelle prestazioni, speriamo non faccia la fine di Huawei, che ha iniziato a aumentare i prezzi, e vediamo un po', di nuovo a te. Sempre in genere, sempre così, anche Huawei non è che non è male, no? Un po' troppo alti i prezzi. Infatti è uscito così, come tutte le cose, quando lo lancio un prodotto nuovo nel mercato, si è fatto il nome, ma lui è il terzo produttore mondiale di telefonia. telefonia, diventerà il primo tra poco, perché ha acquistato dei marchi sottomarchi, perché c'ha l'Honor e l'Oro lo stesso, il prodotto di commerciale. Ma se tu vai in Cina, Huawei è il numero uno e ci sono 1,5 miliardi di persone, poi non parliamo di tutti i paesi asiatici, il numero uno Huawei, ha superato tanti prodotti, adesso forse è arrivato anche il secondo, perché prima era la Samsung, secondo era la Apple e terzo erano loro, adesso li ha superati, ma arriverà primo, non c'è problema, solo che di cinesi ve ne sono un bel di marchi, di quelli famosi ce ne saranno almeno 5 o 6, più ce ne saranno altri centinaio di quelli. Huawei è una cooperativa di cose, era una ditta che produceva per conto di terzi telefonini, applicazioni di telefonia, e i dipendenti l'hanno fatta presa loro, sono diventati i proprietari, hanno fatto tipo la Conad, una cosa del genere, la Coop, una cooperativa, ed è una cosa enorme, talmente potente. Tutta la rete 5G, 95% della rete 5G del mondo è fatta da Huawei, c'hanno una tecnologia, dei brevetti allucinanti, però ci sono dei rischi, perché se tu guardi qualche trasmissione a riguardo di queste cose, che te ne prendono tutti i dati e ce li hanno loro, tutta la roba passa tramite loro e non si sa cosa ne veniva. Mi sa che da quest'anno, mi sa che Xiaomi li ha crepati tutti, No, in Italia vende parecchio, non è ancora a livello di quello, però mi sembra sia quarta o quinta nel mondo come vendite. E naturalmente in Italia non so esattamente, io parlo a livello mondiale, insomma ci è arrivata a quarta, ma già sale perché i prezzi sono molto competitivi. Ma ce ne sono talmente tanti, ormai adesso sta ritornando la cosa, la LG in lizza, perché la LG aveva abbandonato, ho visto la Motorola sta facendo dei buoni prodotti, la Google sta facendo una telefonina anche loro, vogliamo vedere come va a finire, come se fanno un prodotto economico, viene un bel pubblicizzato, la gente lo fa pure per moda, quando era uscito l'Apple, ti ricordi all'inizio, tutti vogliono l'Apple, poi l'Apple si è fatta i soldi, ha iniziato a farsi pagare, non puoi spendere 1700 euro per un ottimo cellulare, ma cacchio, me ne compare giù 4 e mi rimangono anche i soldi con quei soldi. Ci sono, Allora, buonasera Luca. No, l'Elpo proprio, guarda. Ce l'ha avuto il mio principale. Assistenza. Una merda. Avanti Lu. Guarda, io ho l'S10 e va, no, bene, benissimo. Samsung, io ho sempre Samsung. Apple non mi piace, no, non mi piace proprio il coso. Ciao Robert, comunque, ciao Antonio. Non mi piace il sistema operativo che ha. Forse è più veloce che voi. Io ho Android e va, no, bene, benissimo. Anche io. Però Lu, proprio Apple è una merda. Ce l'aveva il mio principale, non faceva altro che andare dal tecnico, sempre dal tecnico, non servi a nuda. Una volta che passano e danno problemi quei telefoni. Ma infatti, avanti Roberto. Ciao Luca, ma diciamo adesso i telefonini sono tutti abbastanza buoni, bisogna guardare il prezzo, perché ormai le fotocamere sono tutte spaventose, cioè hanno delle prestazioni allucinanti, vengono i periti in officina di assicurazioni, usano tutti i cellulari, perché con la fotocamera, anche se c'è una buona fotocamera, il tempo di esposizione, la velocità, loro scacciano col cellulare, hanno un'intelligenza artificiale che automaticamente riconosce il coso, tac, ti dà tutti i valori immediati, mentre con la fotocamera di quelle professionali devi esitare, regolare, fare, ci metti almeno 30-40 secondi per fare una foto bella, se la fai veloce a scattare c'è una gaggata, c'hanno 3-4 fotocamere, grand'angolo eccetera eccetera, ho visto delle foto fatte in primo piano, anche lo Xiaomi mio fa delle bellissime foto spettacolari, ingrandite, ti vedi i puri della pelle, c'hanno delle immagini spettacolari, sono limitati a lunga distanza perché l'oculare è troppo piccolo, però in immagini vicino nell'arco di 10-15 metri fanno delle immagini perfette. Sì, no, anche il mio fa belle foto, vabbè, diciamo che è una mano ferma, sai che quando come la fai non esce bene, però le fa belle, sono matte, già è un ottimo telefono, è un telefono che è stato pagato 700 euro. Cosa c'è Luca? L'S10 è. No, ho capito il suo. Ti posso dire che va bene, 128 giga più 32, io ho 160 giga di memoria. 128, 160 giga, sì. È un 6 giga di RAM, però un ultimo. Adesso vediamo se trovo se trovo il un'occasione mi prendo le 6:20. Samsung, ottimi, niente da dire, prestazioni eccellenti, però costa ne troppo, Luca. Ci sono prodotti validi quanto quelli che costano la metà. Lo so. Vabbè, ognuno può scegliere quello che può. Io ho sempre avuto Samsung, dalle S2, S3, S4, S5, S6, S7 no, S8, S9 no, sono andato subito su S10. Ripeto, se trovo un affare sulle S20 me lo prendo. No, io vado sempre su Xiaomi, sono prodotti validi, non costano tantissimo e pompano forte. E poi dipende, allora io velocissimo su internet, la scheggia. Poi dipende dal processore che ha, capito? Come ha detto prima Roberto, i telefoni adesso, quelli vecchi praticamente, come fanno gli aggiornamenti, e poi le app mano a mano diventano sempre più grandi, ti occupano spazio e ti si inceppa. È fatto apposta, la durata media di un telefonino per avere prestazioni decenti è 1 anno e mezzo, calcolatomi, dopo 1 anno e mezzo inizia a rallentare e alla fine se riesci a caricarlo di più si rallenta troppo. Sì, ma aspetti, poi dal telefonino io vi ce l'ho, adesso ce l'ho quasi 2 anni questo qua, poi è sempre un bombo. C'è un bel po' di roba dentro, video e quant'altro. Niente, non ho mai avuto problemi. Quindi il display è sempre bello, con i suoi colori belli, la sua luminosità bella, non è perfetto. Sì, ma perché c'hai 6 giga di RAM, prendi uno da 3 giga di 1 anno e mezzo fa e poi metti, prova a navigare su internet a vedere cosa succede. Se magari un domani questo qua va a farsi benedire. No, io lo stesso l'ho preso 2 anni fa, c'aveva 128 e 6 giga di RAM, eccezionale, una bomba rispetto a Huawei, c'è stato un cambiamento allucinante, però io sono convinto che dura me lo tengo, perché nuovo, i miei sono tutti nuovi cellulari, ce li ho tutti conservati e me li conservo, però arrivano a un certo punto, poi adesso c'è poi il discorso del 5G, tra un annetto alla fine di cambiarlo per forza. Che va al mio, non devo cambiare proprio niente. Solo che sono ancora carucci, un 5G ci vogliono 400-500 euro il più, scaccino discreto, dai, non dico scaccino, discreto. Vabbè. Adesso vediamo. Ripeto, se trovo un affare lo faccio, altrimenti niente. Che poi l'S20 già è 5G. Sì, ormai, ma costa roba di denaro, Luca, comprare un telefonino da parte, c'è gente, conosco gente che ha speso 1700 euro per un Samsung e per un iPhone, cioè da parte, cioè, con 1700 euro me ne compare giù 4 di telefoni. Ah, è quello che sì, ho fatto il vaccino oggi, ho il braccio secco, mamma mia, sono tutto pieno antidolorifico, perché non riuscivo neanche a muoverlo. Cosa hai fatto il vaccino? Ehi, tu non l'hai fatto perché? No, io non me ne posso, non so quello, non entriamo in merito, siamo stati un'ora l'altro giorno parlando. Com'è che l'hai fatto lui? Come mai? A parte che vabbè, sono andato a curarmi, sono andato al dentista e almeno sono più tranquillo. Ah, sei tranquillo, bubu, e grazie la dita a te che fa cosa? Che cosa? Io vedo ma persone, cioè, un bel di persone vaccinarsi, un bel pieno. Poi robe. Siccome voi siete a contatto con le persone, non lo so più cosa succede, questo non lo so, ma io penso che i lavoratori sono costretti, tipo tu che stai a contatto con le persone, sei costretto a farti il vaccino. Ma una cosa, perché serve a qualcosa il vaccino? Se tu mi dai una giustificazione che serve a qualcosa, tieni presente che il 95% della popolazione si ha preso il Covid e il 95% della popolazione è asintomatica, come quando tu ti prendi l'influenza, te la sei presa e non te ne accorgi. La stessa cosa, questo vaccino è una cosa che non c'ha niente a che vedere con la malattia, perché ti stanno modificando le riserve immunitarie dell'organismo, eventualmente se ti viene qualche virus, uno qualsiasi, forse ti fa intervenire gli anticorpi. Non era un vaccino è quando ti iniettano la malattia, tipo il tetano, la malaria, il colera, eccetera, eccetera, in forma ridotta e l'organismo lavora su quella malattia lì. Questo caso è la prima volta che utilizzano sull'uomo questo tipo di prescrizione, che non è un vaccino, che tutti chiamano vaccino. Io mi devo iniettare una cosa sperimentale, che non si sa se funziona, per che cosa, per avere che cosa. Non mi dà nessuno sollievo, perché invece mi calma la malattia. C'è gente, proprio io ieri, hanno detto, questo qua si è fatto il vaccino e si è pigliato un Covid positivo. Cosa mi dici tu, Luca? Bevela! Ma cosa vuoi che ti dica? via, ciao Clara. Cosa vuoi ti dica, Robè? Boh, io l'ho fatto e boh, adesso c'ho un richiamo il 7 di luglio. Pazienza, ma l'ho fatto, cosa devo fare? E poi come ti ho detto sto andando dal dentista e io penso che sia felice perché loro sono vaccinati, capito? Penso che sia felice se vanno le persone vaccinate, noi sono più tranquilli loro. Ma tu, ci sarebbe da parlare 3 giorni di questa storia qua, lasciamo per le preparatevi in autunno uguale a questo e vi devo dire la delta dose. Ma chi c'era, Claudio? Sono entrato a salutarvi, basta, vi sto ascoltando. Fatevelo il vaccino, cioè fa bene anche il mangaglio. E infatti qua c'è pentita vi raggio. Allora, perché non hai visto che è roba celeste, roba, secondo me è roba di Viagra, cosa? Ma io l'ho già fatto e come l'ho fatto, cioè avevo la schiena un pochettino storta, ma dritta proprio la schiena. Picchiata! Vabbè, Robè, non sei il solo che non se lo vuole fare. Tu pensa che gli zii di Marina tutti se l'hanno fatto, tranne due, che è la sorella della mamma e poi vabbè, il marito, sono proprio contro queste cose, capito? E vabbè, ognuno può fare quello che vuole. Avanti Antu, tu te lo fai il vaccino Antu. Se ricordo sì, solo che per me ancora è presto. Quanti anni hai? 36 anni c'ho. Sì, anche per te c'è. Vero. Se vuoi ti mando il link, lo cerco, te lo mando e te lo prenoti. Capa. E quando mi avevano prenotato, ma dice che ancora non c'era. Vabbè, io ti mando il link, dai, so te lo cerco, riprendi Robè. Oh, io vi saluto, ciao. Ciao Cla. Ciao Cla. Ciao Cla. Tu sei forte, Cosa tu? Che sei forte. Sei forte, io sto usando l'orgarci, se attorneco con 20 watt non è che ho niente da mettere. Abbastanza, va bene. Caspita, sei quasi come 29. Ah, già va bene, dai. Già non sono distante, ti ho detto. Però è diverso da là, dai. Va bene, ciao. Ciao. Hai visto a Piazza del Segno? Hanno fatto un cartello grande su un camion, quel camion vela, no vax. E beh, la pubblicità per non fare il vaccino, perché vogliono rendere obbligatorio questi balordi. Io dico, se tu te lo vuoi fare a rischio per il produttore, però tu non mi puoi obbligare. Loro dicono, no, non ti obbligano, però dice, se tu devi entrare all'aeroporto, se devi abbigliare la nave, devi avere un vaccino, e quindi la mate sicuro. Guarda tu, ti sfido a chiunque, se c'è un'intervista alla televisione, in qualunque televisione, dalla Rai alle private, che intervistano a qualcuno e dice no, io non me ne faccio di vaccino, non ne hanno fatto vedere uno, è tutta una questione politica e economica di questa cosa così, perché col cacchio c'è bisogno di vaccinare i bambini piccoli, se il tasso di mortalità era solo per le persone anziane con patologie, per dire dopo gli 80 anni, perché io devo vaccinare un bambino di 12-13 anni se il tasso di mortalità è zero, sino ai 50 anni il tasso di mortalità è zero, perché tu devi consigliare alla popolazione a vaccinarsi, che poi finché mi dice io mi faccio il vaccino e mi permette di uscire da tutte le parti, di entrare in tutte le parti, di non avere bisogno di mascherina, invece no, cioè il vaccino deve avere tutte queste cose, allora la cosa te lo sei muovendo, spiegatemi questo. Ha ragione io. E poi la banda più grande che hanno vaccinato a ieri 34 milioni di persone, cacchio, più ci sono quelli che vogliono fare la seconda dose, in Italia siamo 60 milioni, per cui siamo più del 50% delle persone secondo loro vaccinate, una balla mondiale, che se ne hanno vaccinato massimo 7-8 milioni è troppo, perché tutti i ragazzi di fascia dai 40 anni in giù nessuno si è fatto il vaccino, a meno che non sei uno dell'ospedale o cosa del genere, o che è stato obbligatorio, diciamo. Come fai a contare le balle che hai fatto 34 milioni di vaccini? È tutta una questione pilotata dai media eccetera, perché i veri professori che si intendono di queste cose, quelli che sanno cosa vuol dire un vaccino, quel premio Nobel francese e tutte le altre persone, allora, è assolutamente inutile, perché il vaccino non è stato isolato, tu ti stai iniettando una sostanza che eventualmente manipola i tuoi anticorpi, le tue cose per reagire eventualmente a un virus, perché questo virus si modifica continuamente, ci sono tutte le varianti, come fai tu a mettete una cosa che non hanno ancora isolato. Adesso c'è la variante vietnamita, indiana, africana, sussinca, di tutto, e tu ti fai, ti metti una sostanza che ancora non si conosce, questo vaccino, e non parlare, tu sei giovane, io ti auguro che avrai dei figli, cosa ne sappiamo tra 10 anni, quando avrai figli tuo o i tuoi figli o i tuoi nipoti, che siano perfettamente sani? Non sappiamo niente perché non ci sono statistiche. Come cacchio fa a fare a tutta la popolazione un vaccino di una cosa sperimentale? Spiegatemi questo. Comunque hai ragione Roberto. Secondo me è una cosa, hanno buttato in giro da sé che erano la fame questi cazzi case farmaceutiche, hanno buttato in giro un cacchio cosa, hanno buttato in giro un po' facile di là, poi adesso andrà tutto a tacere. Ma la cosa più ridicola, allora tutte le influenze con la stagione calda scompaiono, poi i raffreddori, le influenze normali, quelle che si prendono tutte, iniziano dalla stagione autunnale sino al picco, diciamo gennaio-febbraio, quando c'è il freddo proprio fuori, poi diciamo da aprile e maggio iniziano a diminuire, giugno scompaiono, adesso secondo loro è merito del vaccino. A marzo, cioè, a maggio erano già disegni che erano già diminuiti i casi loro se li inventano, perché cacchio, se tu ti guardi le statistiche dei morti che ci sono state influenze negli anni passati, chissà da cosa non è più morto uno di influenza, se tu guardi le statistiche tutti di Covid sono morti, non senti più gente morta di tumore, morta di coso, di infarto e di altre malattie, tutti quelli che muoiono sono morti di Covid, perché se ti hai preso il Covid è stato il Covid a ammazzare, anche se sei morto tu di leucemia e coso, ti hai preso il Covid, sei morto per colpa del Covid, non per colpa dell'altra malattia, e questa è la cosa. Poi quando ci sono effetti collaterali che esistono in tutti i vaccini, in tutte le medicine, no, quello c'aveva altre patologie, altre patologie solo per una parte vale, è una presa per i fondelli. E ricordatevi delle parole mie, in autunno ci sarà di nuovo la terza dose, perché non servirà a niente questa cosa che hanno fatto. Aspetta, non è la dose, perché adesso devono andare in vacanza i medici che ci hanno fatto ridinà, poi rientrano e se devono fare altri soldi. Caso strano, quella gente lì si sono trasferiti tutti nei reparti Covid, si sono trasferiti, è una mafia, va in giro, c'è una mafia, non abbiamo ancora compreso, no, vuole arrestarli, vuole. Ma lo sai quanti ne stanno morendo di altre malattie perché non vengono curati come devono essere curati? Io conosco una persona, un amico che è morto, c'aveva un problema abbastanza grave, te l'hanno mandato e poi alla fine ha detto che era morto di Covid, lui c'aveva altre patologie, non sono riusciti a fare nada, ci ritorno un altro giorno perché siamo intasati, ci hanno mollato gente che aveva paura a fare la cosa, la chemioterapia, non entrava in ospedale per la paura del Covid, hanno messo il terrore nella gente, cacchio, quanti ne sono morti di, come si chiama, di altre malattie per questo motivo qua, perché non sono stati curati adeguatamente, hanno avuto il panico generale, non parliamo cosa è successo ai giovani, provate a informarmi la depressione giovanile di quanto è aumentata, quelle sono patologie gravi, no, cosa cacchio, se non c'è nessun sintomo, perché io mi devo curare una cosa che non c'ho sintomo, è come mi vuoi il vaccino dell'Ebola, dice se ti viene, se ti viene ci curiamo, qual è la stessa cosa, se tu c'hai, ti viene il Covid, ci sono le soluzioni per curarti, ci sono sempre state, all'inizio non le hanno utilizzate, perché hanno fatto delle cure completamente sbagliate, sono morte migliaia di persone con l'ossigenazione eccetera eccetera, adesso esistono le cure, guardate tutti i giocatori di calcio, i politici, i personaggi pubblici, se ne è morto qualcuno immediatamente curati ai primi sintomi è finito tutto, in una settimana, 15 giorni stavano già giocando. Aspetta che mi sta squillando il telefono. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, io accetto tutto quanto, però a me non mi puoi obbligare, se io non me ne voglio fare, non me ne voto, non mi puoi obbligare a farlo. Vai Luca. Chiama Roberto, va. Cos'è? Chi c'è lui? Aspetta. Nicola, non lo senti Roberto? Allora lui da poco fa che lo rilanciavo, basso basso lo sai. Nicola, arrivi basso, cerca di fare qualcosa. Ha detto che c'è un'altra malattia in giro, Roberto, dalla Cina. Luca, ma tu i virus lo sai cosa sono i virus? Sono delle cose infinitesimali, sono 600 volte le dimensioni di un cappello, sono nell'aria, ce ne sono milioni nell'aria. E allora io mi devo fare di tutti quanti i virus possibili e immaginabili, mi devo fare il vaccino. Cioè loro ti stanno facendo iniettare una sostanza sperimentale che nessuno conosce, perché di cosa è costituita nessuno lo sa, l'hanno vietata tra di fatto, non vogliono fare neanche circolare gratuitamente per questioni economiche. Hai visto che subito hanno detto diamo il brevetto libero, la libertà di farlo, non vogliono perché ci sono soldi troppo importanti, miliardi e miliardi di dollari in questo caso, perché li utilizzano i dollari, che cacchio ci stiamo a fare? E tu a un ragazzino per far entrare a scuola gli devi far fare un vaccino a un bambino di 12 anni per entrare a scuola, che poi se lo può prendere comunque il coso, il Covid, non è detto che muoia perché il tasso di mortalità è talmente zero, tendente allo zero in quelle fasce d'età, come cacchio prezzi? Tu ci metti queste mascherine inutili che non servono a niente, cacchio. La gente convinta ti metti la mascherina di cosa? Se penetra dentro i puri della pelle, è come che tu fai una puzzetta, uno scorreggio e ne esce fuori, ne esce di aria dalle mutande, e questa è la stessa cosa, è ancora più sottile. vabbè, fatto l'agio, ormai non posso durare in dritto. No, io ti dico, l'uno è libero di farla, a me in casa mia ce l'hanno già fatto, ce l'hanno fatto due mie sorelle, anzi tre mie sorelle e mio fratello, l'hanno fatto fare a mio padre, io assolutamente contrario, mio padre è grande, deve fare 88 anni, io sono assolutamente contrario, perché conosco delle persone che a giugno non muoiono, e tu mi dirai, sono casi unici, come potrebbe essere anche per il vaccino di Bossudì, per farti l'antivaiolosa, per dire, ci sono gli effetti collaterali, quelli sono casi che capitano, però cacchio, non mi devo cercare io le cose, i problemi se non ne ha. Io se mi dovesse venire il Covid, che probabilmente mi è venuto, non lo sappiamo, se dovessi ammalarmi ci sono le cure, ti curi e va. Naturalmente devi curarlo in tempo, non quando c'ha la polmonite acuta, bilaterale, eccetera, eccetera. Io me la sono presa la broncopolmonite e so cosa vuol dire e rischi la vita. Però se uno c'ha quel tipo di patologia, quelli che sono morti all'inizio e non li ha curati nel modo giusto, li ha curati mettendogli ossigeno, uno che c'ha quel tipo di patologia non ha fatto le autopsie, sono molte migliaia, decine di migliaia di persone perché hanno sbagliato le cure, e quando sarà, se sarà, che ci sarà un processo, vedrai quanta gente verrà condannata, hanno condannato a 24 anni quello dell'Ilva, l'hai visto, perché dice inquinava eccetera eccetera, questa è la stessa cosa, hai sbagliato le cure e sono morte migliaia e migliaia di persone, quando si fosse intervenuti bene dall'inizio, molte di quelle persone non sarebbero morte, a parte vabbè, è normale che muoiano, come muoiono tutti gli anni decine di migliaia di persone dall'influenza, la gente purtroppo non lo sa, l'hanno spaventata, hanno distrutto l'Italia, perché tutta la gente che si è ammazzata, le attività che hanno chiuso, gente che sta facendo la fame, quello non lo considera, stanno mettendo il panico, hanno creato il panico alla popolazione, e quest'anno è peggio dell'anno scorso, perché qua ci abbiamo un anno appresso di miseria, dall'inizio erano pochi mesi, adesso ce lo stiamo portando da marzo del 2020 e siamo già a giugno del 2021, fatti conto tutte le attività che hanno chiuso e la gente, a parte quelli che si sono ammazzati, che non dicono niente, vai in questura e ti fai dire quanti suicidi ci sono stati a Sassari, informatevi bene, alla televisione non le possono dire queste cose, no? Però qualcuno si sta svegliando, ho visto già a Piazza dei Segni il cartello grande, no vax, comitato no vax, tu non mi puoi obbligare a fare il vaccino, cazzo. Ecco qua, sono ritornato. Lo so, è come hai detto tu prima, poteva succedere anche a me che non me ne faccio, tu te lo fai, poi non lo so come va a finire. Per esempio, che tu sei a contatto con le persone, non so come va a finire, e poi ti danno questo pass, che tu sei vaccinato e sei più tranquillo, poi non lo so, ormai lui ha fatto, poi vedrà, cioè, non è che mi interessa succeda quello che succeda. Come hai detto tu prima, poi se te lo riprende il Covid te lo prende lo stesso. No, ma quello che dico io, Luca, scusa se monopolizzo Anto, io quello che voglio dire, allora ognuno è libero di farsi il vaccino, però se tu mi dici, ti fai questa specie di vaccino, perché non è un vaccino, diciamo ti inietto questa sostanza che ti permette di essere libero, libero di andare in qualunque posto, non c'è bisogno di utilizzare la mascherina, puoi baciarti una persona senza problemi, uno dice sono libero di farlo, io voglio quella libertà, invece in questo caso non ti stanno dando la libertà, la gente gente non capisce, te la stanno togliendo, perché stanno mettendo in giro questo certificato, tipo quanti Baziani ai tempi degli ebrei, dei campi di concentramento, il Buniani è un marchio, ti stanno mettendo un marchio, ti stanno legando, la gente non capisce cosa stiamo andando incontro, e quella è la fottitura, stiamo diventando pecore la maggior parte, andando ad ascoltare questi imbecilli. Ma vi ricordate all'inizio cosa dicevano? A Natale saremo tutti liberi, perché prenderemo adesso questi lockdown che abbiamo avuto a novembre, ci servirà per stare tutti liberi. Magando, questi fanno tutte le statistiche che vogliono loro, sono aumentati, sono diminuiti, adesso chissà perché stanno tutti diminuendo. È normale, siamo d'estate tra poco, è normale che tutti i virus col caldo muoiono, che anche i vaccini te li facciamo vedere a meno 80 gradi con i furgoni dell'esercito e tutto quanto, adesso te li vedi sopra il tavolo e te li iniettano così a temperatura normale. Ma dove sei mai visto? Ci fanno vedere quello che vogliono loro, e aprite gli occhi. Io l'ho detto a tavolo, sai quante discussioni, fortunatamente c'è tanta gente che li ha aperti gli occhi, però purtroppo la gente, la maggioranza, sta seguendo questi qua, ed è quello il brutto. Non vi rendete conto, siete tutti legati adesso con questa storia qua. Anche io stavo pensando, prima ero a meno 70-80 gradi, adesso sto bracing già pronto nel tavolino. Tu l'hai fatto o no? All'inizio doveva essere conservato a meno, lo sai, devo dire, meno 80 gradi. Ci vogliono delle attrezzature allucinanti a livello di laboratori di scientifici. E io, cacchio, con un camion frigo dei gelati, biglietti di grosso dentro, quelli che trasportano. Ma dove si è visto? Vi rendete conto le balle che hanno sparato? La gente non se ne rende conto. Ma poi i vaccini, la cosa più vergognosa dei vaccini, in Italia lo sapete quanti vaccini ci abbiamo, quanti ce ne dobbiamo fare? Lo so, è vero, ce ne sono tanti vaccini. Adesso c'è questa, non so, questa, l'altra che era uscita, un casino, vabbè, io mamma lo stesso l'ho fatta vaccinare, perché lei purtroppo c'era tante patologie, adesso fa il richiamo il 27, mi sa, di questo mese, e niente, cosa vuoi fare, vabbè, non so cosa dirti. Allora, adesso io ti dico una cosa che poca gente lo sa, molta gente, chi si informa lo sa, perché io parlo con tante persone che sono, la pensano ad occhi aperti, non a quello che dice la televisione. Allora, il vaccino, questo pseudo vaccino, non è un vaccino, l'ho detto prima, quando tu devi fare un vaccino per una malattia, la devi isolare, come hanno fatto per il coso, per la polio, per il tetano, eccetera, eccetera. Prendono il vaccino, te lo mettono in forma ridotta, limitata, te lo iniettano, questa malattia, ti mettono la malattia dentro il corpo e automaticamente reagisce con gli anticorpi e ti fa la salvaguardia di questa malattia. In questo caso qua non hanno isolato il virus, ti stanno iniettando una sostanza sconosciuta che non si sa cosa ci sia dentro, e farà in modo che eventualmente, se ti prendi qualche virus, l'organismo reagisca. Però gli effetti collaterali che ti potrebbe creare a lungo termine nessuno li sa, perché non esiste una statistica, perché un vaccino ci vogliono 30-40 anni per avere gli effetti collaterali, se ti nasce un figlio spastico, se ti nasce un figlio mongoloide, cioè, non lo sappiamo. E tu, tutta la gioventù, tutti i giovani, li vuoi fare iniettare una sostanza che non sappiamo come potrà reagire tra 20 anni, che magari perdi la fertilità, magari la popolazione non lo so cosa, qualunque cosa potrebbe succedere. E noi ci vediamo, in Italia abbiamo 12 vaccini, in Germania ce ne sono 8 e in Francia ce ne sono 6 di vaccini. Chissà per quale motivo, immaginatevi per quale motivo. Hanno fatto le prove dei vaccini, che ci sono anche in altre nazioni, ce ne sono 3 vaccini in Italia, sostanze, ci sono 78 sostanze sconosciute in questo vaccino, tra cui c'è anche l'alluminio. L'alluminio è il metallo più pericoloso che possa entrare nell'organismo, peggio del mercurio, perché il mercurio riesce a esperlo. L'alluminio ti rimane dentro, nel fegato, e ti crea dei tumori e le malattie. Ci sono questi vaccini, non dico questo perché non si sa niente ancora, dove c'è alluminio per lo meno, in questo metallo, in questo nuovo che stanno iniettando c'è del ferro, il ferro non è tossico per l'organismo perché riesce a espellerlo, sono in quantità esorbitante. Hanno fatto le prove con il coso, degli oncologi, hanno fatto le prove, i valori, infatti se leggete, le donne non possono farsi una radiografia, un'ecografia al seno, perché sennò i valori sarebbero spropositati, c'è scritto vietato farlo, certo che è vietato, perché se controllano i valori del ferro dice che c'è dei linfonodi, cioè mi ha cognata, gli è venuto un problema, gli ha detto a mio fratello, ma non sarà per il vaccino, poi leggendo, infatti era il problema del vaccino, gli sono saliti dei valori allucinanti dopo il vaccino, adesso sta bene, grazie a Dio, mi auguro che stia bene, però quello lì sarà fatto perché è insegnante, e io devo farlo fare anche ai ragazzi di... Ma stiamo scherzando? Vabbè, non siamo tutti uguali purtroppo, ma accanto ci sei. La dovrebbero smettere di fare certe cose, però, cioè, se lo puoi lo fai buono, se no lo lasci stare, e poi si sa, alla fin fine si sanno queste cose, che è come l'influenza, ci dobbiamo contagiare per passare tutto, non dicano balla, che poi non è che fotti a chissà cosa, è come una normale influenza, solo che c'è quello più debole che lo prende, è l'influenza quanto ne ha ammazzato di gente, ne vogliamo parlare, perché non tutti supportano queste cose, però non lo dicono. Ma tu trovami uno che questa non abbia preso l'influenza, una persona, uno solo ne ho conosciuto io, adesso un mese fa se l'ha presa l'influenza, ma l'influenza non c'è, tutti quelli che hanno l'influenza, che hanno passato l'influenza con dei sintomi Covid, automaticamente è Covid. Ma vai, andare a cagare, cosa Covid, pure io ce l'ho avuto un paio di giorni, sono stato male, non era Covid io. Allora, se tu ti prendi una persona che ha delle patologie tipo leucemia, qualunque cosa del genere, e si prende una qualsiasi raffreddore o qualunque influenza di qualunque genere, rischia la vita, è una cosa pericolosissima. Questo qua magari è più virulento, più aggressivo, nessuno mette in dubbio, però cacchio, non puoi fare una cosa mondiale dicendo cacchio che si muore da tutte le parti. Sì, ma quanto è il tasso di mortalità effettivo di questa cosa? Non guardiamo i paesi poveri, parliamo dei paesi in Italia, quanto è il tasso di mortalità e le fasce di mortalità, guardiamo quante persone muoiono di 30 anni, quante ne muoiono di 70, quante ne muoiono di 80, sino ai 40 anni il tasso di mortalità è talmente basso, come un'influenza normalissima, per cui che cacchio stiamo a dire, perché mi devi obbligare a fare un vaccino, che non è un vaccino, quando non c'è bisogno io non ho sintomi, ma è come tu, quando devi andare a farti un lavoro, una qualunque cosa, la gente dice, fatti il vaccino, ossia che poi magari ti puoi prendere, fatti su di l'ebola, e perché me lo devo fare, se non ce l'ho io? Appunto, va qua, per carità, stai esagerando, proprio esagerando, cioè hanno messo gente in mezzo alla merda con questa storia, gente in ginocchio veramente, ristoratori, mariti, gente che si è cuduto qui a capo perché era una vergogna, non riusciva più a pagare a nessuno, ma stiamo scherzando cosa? Dipendenti, cazzo, che hanno avuto, hanno con figli che hanno avuto passati brutti quarti d'ora perché non avevo più soldi, schifo, fanno schifo e basta. Vai alla carità, so quello che c'è di una provvidenza, come si chiama quello che c'è vicino alla questura, passa la mattina, vi rendete in conto? C'è anche una persona che conosciamo molto bene che era qua in radio, che l'ho visto l'altro giorno, mi ha fatto pena, e l'ho visto lì facendo le musiche, ma vi rendete conto a che punto siamo arrivati? Che stanno creando il pane, tutte le aziende che stanno chiudendo, tutte le attività di coso che hanno chiuso, migliaia e migliaia di persone che sono alla fame, cacchio, mi devo preoccupare di una cosa che forse mi potrebbe venire e che non è così grave come stanno dicendo. Sono così zedega, l'ho visto altre volte, Dio mio, cioè la gente serve sempre di più lì a comprarsi il mangiare, però le danno a certi che lo buttano e quello non va bene, ma quello lo danno, quello lo so il perché. Ma lo sai, te la dico una cosa, dimmi, lo conosci la persona, il dottore, quello, il padrone, tutto quello, ha creato tutta quella roba lì, lo conosci? Già lo so curare. Allora io lo conosco bene, ti posso dire, una persona veramente in gamba, lo sai cosa mi ha detto? L'ho fatta io la stessa domanda, ho detto, ma scusi dottore, ho detto, ma quanta gente che prende la roba, ce la butta, se la vende, le dà Regani, che tutti ci vanno, che tutti ci poi se la vendono sotto banco, mi ha detto, a me non me ne frega niente, se ci sono 100 persone e 5 persone ne hanno bisogno, io sono contento per quelle 5, delle altre 95 non me ne ha fottuto nulla, io ho fatto del bene a 5 persone, per colpa di questi 95 non posso lasciare senza mangiare a chi ne ha veramente bisogno, e mi ha attaccato la bocca, ha detto la cosa più giusta, quello che hai detto tu, lui mi ha risposto così. Non so, io ho pubblicato un video su Facebook, chi sta nel lampado la roba, sta nel lampado, e non va bene così, perché ci sono persone che hanno realmente necessità, e non andare bene che c'è così. c'è stata la padduca, un coso di gelato, fragola e tutto, ma all'inizio me lo posso immaginare che può essere. Certo, non è gente italiana che fa quelle cose. Cioè, già ce n'è che fanno quelle cose, ma ci vanno anche gli stranieri, ci vanno lì. Non ne comprende né da bigliare, a chi non rimagna, ne strampano i dustumi. Adesso purtroppo. Vai Luca, vai a te. Come fa a sapere chi è? Via. Non è peggio chi se lo prende, se lo vende. Tutto 5 euro, 6 euro, oh via, per carità, va. Perché cosa ci vuoi fare? È un casino, è un casino. Oh via. Infatti come hai detto tu Anto, c'è gente che ne ha bisogno, la sua taccia che ne ha bisogno non ci va. Quello è vero, anche molte persone hanno vergogna, però su 100 magari ce ne sono 20 che ne hanno proprio necessità, proprio che non hanno manco uno spillo, però lui ha detto così, io li do per quelli che ne hanno effettivamente bisogno, l'altro che lo dà a mangiare al cane è peggio baedo che imbecilli. Ebbene, effetti così. Vabbè. Se dovessero fare dei controlli, guai, poi tutta la gente che ci va, doia, soltanto quando ci sono passato lì, ci sono tutta montunati, per carità. Adesso hanno messo uno schermo un pochettino, ma prima era una vagogna, cioè, vedevi, sembrava il cacchio terzo mondo, ai tempi della guerra, quando davano le tessere per andare a prendere il pane, ai tempi di mio babbo, quando era ragazzo, che davano la tessera e ti pigliavi 250 grammi di pane, mi ha detto, e non so quanto di farina, di zucchero. Poi poco fa ero, insomma, volevo davvero la febbre, mi sono alzato ero, con il freddo addosso, sono vestito subito, guarda, ma forse per questo sole che ho preso stasera, c'è un freddo allucinante. Mario non hai preso colpo di calore, ma non lo so, può succedere qualche linetta di febbre. Fateci giù, mi sono messo in silenzio, infatti mi sono messo col fino sotto, col giubbino dalla tuta, niente, mi è passato. Vabbè, è una cosa momentanea, dai. Ok, signori, adesso vi lascio che vado a mangiarmi qualcosa, dai. È sempre un piacere ascoltarvi, e quando sono chiacchierate anche se Mario è troppo nervoso perché mi dà fastidio questa studia. Purtroppo la maggior parte delle persone seguono il gruppo e io sono di quelli che non li seguo. E ce n'ho qualcuno, fortunatamente, come me, molti, stanno diventando sempre di più. Poi ognuno deve fare quello che vuole. Io chiudo, ciao Luca, ciao Antonio e tutti gli eventuali amici qua sul canale 10. Correti da parte mia. Ciao Roberto, salutone. Anche io chiudo perché sono stanco, molto stanco. Ciao Antonio, anche a te ti dice Zuburu che stavi, come si dice, stavi, cascendi, dai, come si dice in sassarese. Avanti Antonio, ciao. Capo, salutone Roberto, salutone anche a te Luca. Ciao ciao a tutti. A domani se coincide, ciao. Capo, che volevo entrare?